Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Le abbiamo viste sedute a vegliare corpi coperti da lenzuola bianche o gridare nella folla per acclamare l'ultimo boss arrestato. Possono invocare il perdono nelle guerre dei loro uomini, ma sanno altrettanto impartire ordini di morte. Camminano fiere nelle strade dei loro paesi o restano chiuse nelle roccaforti delle loro case. Essere donna a sud di Gomorra è complicatissimo, ha scritto Roberto Saviano, ed essere donna in un piccolo paese dell'Aspromonte, nel borgo simbolo della più ancestrale ma anche più ricca e spietata malavita organizzata, può esserlo ancora di più, e in particolar modo per le tante donne normali, vittime due volte, vittime delle logiche profonde dell''ndrangheta e vittime dei rischi del non farne parte. A queste latitudini un movimento di donne può essere un gesto rivoluzionario, anche perché nato dalla resistenza ad una violenza, a quella che sarebbe diventata il presidente del movimento Donne San Luca, Rosi Canale. Io ero una piccola imprenditrice del settore della ristorazione e dell'intrattenimento. Purtroppo una donna in un ruolo del genere viene vista con un occhio un po' particolare. Io mi sono opposta a delle imposizioni che ovviamente arrivavano da una parte malsana della società, dove mi veniva richiesto di essere tra virgolette complice di uno spaccio di stupefacenti all'interno del mio locale. Opposta a queste imposizioni sono stata vittima di un'aggressione che mi ha creato delle grosse complicazioni anche a livello di mobilità, perché ho avuto insomma tutta una serie di problemi e dei danni permanenti. E da qui poi è nata la mia voglia e la mia volontà di fare qualcosa per la mia terra, e quindi arrivata a San Luca abbiamo messo insieme queste donne straordinarie, io direi, che hanno detto basta e dicono tutti i giorni basta, impegnandosi a titolo volontario e gratuito. Ci arriviamo a questo e arriveremo a raccontare che cosa voglia dire essere donna a San Luca, che cosa voglia dire vivere in un paese del genere. Come spesso accade, alcuni comuni, alcune zone diventano un po' anche dei simboli, così è per Casal di Principe in Campania, così ad esempio per San Luca. Ma prima di raccontare anche la quotidianità della vita di chi vive in questo paese, in San Luca, io volevo ancora chiederle qualche elemento in più sulla sua diretta esperienza. Cioè, lei ha quindi subito una minaccia sia prima come imprenditrice in un ristorante, che poi dopo, nel momento in cui aveva già assunto anche il ruolo di presidente del movimento delle donne, è stato fatto un atto intimidatorio anche nei confronti della sua auto. Il movimento donne ha, come dire, attirato l'attenzione dei media nazionali e internazionali e ha un po' scosso tanti equilibri che erano cristallizzati su delle posizioni ben precise. Il fatto di creare coscienza soprattutto nel mondo femminile è qualcosa che crea sicuramente squilibrio e disturbo. Quindi io, come personaggio assolutamente non violento, sono arrivata lì con delle buone intenzioni, cercando appunto di far capire a queste donne che c'è un'alternativa di vita che possono offrire ai loro figli e possono intraprendere loro stesse. Ci ha detto che prima, quando gestiva un ristorante, che cosa le è successo? L'hanno aggredita? Mi hanno aspettato a chiusura del locale, poi mi è stata puntata una pistola e da lì insomma tutta una serie di cose, perché la mia macchina si è fermata e mi hanno picchiato a sangue due individui che non sono mai stati rintracciati né puniti. E quindi così. E questo era perché le avevano esplicitamente fatto capire, chiesto una sua complicità in uno spaccio di droga? Sì. Effettivamente i fatti erano questi. Vede, queste cose quando vengono raccontate e quando si ascoltano sembrano delle scene da fiction, delle cose lontane, invece purtroppo in alcune zone della nostra Italia sono delle quotidianità drammatiche che persone come me hanno vissuto e purtroppo a volte continuano a vivere. Ecco, e Rosi, lei anche dopo, appunto, dicevamo, ha subito un'altra intimidazione nel momento in cui fu scassinata la sua auto. In quel momento lei era già più esposta come presidente del movimento delle donne. Che lettura fu data di questo atto intimidatorio? Perché anche quello che voi organizzate può dar fastidio, e in quel momento specifico quella intimidazione anche da parte delle forze dell'ordine? Come fu letta? Fu legata a qualche progetto particolare o qualche episodio nello specifico? Purtroppo la parola antimafia è una parola che in determinati territori non si può utilizzare, perché lei capisce bene che queste organizzazioni malavitose sono fondate essenzialmente sul legame di sangue, per cui nel momento in cui le donne si riuniscono in un movimento non violento che vuole la legalità e vuole una vita migliore, automaticamente questa etichetta di antimafia vorrebbe dire mettersi contro i loro stessi parenti, per cui l'atto intimidatorio è stato legato per questo. Nel momento in cui il vostro movimento si è insediato, avete avuto facilmente anche adesioni da parte delle altre donne, o in qualche modo all'inizio, diciamo, c'era anche una forma di reticenza, forse per quelle stesse ragioni di cui lei parlava poc'anzi, nel partecipare anche proprio così in astratto, per iscriversi anche soltanto al vostro movimento? No, assolutamente, devo dire che quando noi abbiamo iniziato il nostro cammino c'è stato grandissimo entusiasmo da parte di tutti, anzi le dirò che le varie, come dire, fazioni erano riunite all'interno del movimento in grande serenità e con grande dialogo. Io che vuol dire che le varie fazioni erano all'interno del movimento? A chi fa riferimento? Faccio riferimento alle donne provenienti da qualsiasi famiglia. Diciamo che all'interno del movimento si sono ritrovate le donne di tutto il paese e lì erano comunemente donne. Non c'era un cognome particolare che emergeva rispetto a un altro, non c'erano ostilità all'interno del movimento, c'era soltanto il desiderio e la voglia di costruire qualcosa per il bene comune di tutti. Quindi questo è stato il grandissimo risultato che ci è stato riconosciuto, insomma, un po' da tutti quanti. Il fatto di aver messo insieme queste donne, di aver fatto loro capire e superare quella forma di astio e di odio che era legato a retaggi di altra provenienza. Ecco, Rosy, sono soprattutto giovani. Che età hanno le donne che partecipano al vostro movimento? Partiamo da una base di 18-20 anni e arriviamo fino ai 65 anni. Avete mai avuto qualcuna che vi abbia proprio raccontato di essersi poi sentita dire a casa che non era gradita la sua partecipazione alle vostre iniziative, o che ha dovuto faticare per difendere una scelta anche soltanto di vita sociale? Assolutamente sì, abbiamo avuto più persone che sono state sconsigliate a partecipare alle nostre riunioni, alle nostre iniziative, ai nostri progetti, proprio perché nel momento in cui, le dicevo, noi siamo stati etichettati come movimento antimafia, ci sono stati delle prese di posizione un po' diverse rispetto a quello che noi pensavamo. Noi siamo un movimento sicuramente basato sui valori della non violenza, ma quello che io ho sempre detto è che noi non siamo contro nessuno. Tutto ciò che è anti vuol dire essere contro. Noi non siamo contro la gente, noi siamo a favore della gente. Quello che proponiamo è proprio aggregazione, socializzazione, comunione e soprattutto dialogo, che è un elemento molto importante che a San Luca è mancato per tantissimo tempo. Nel momento in cui alle iscritte al vostro movimento è stato sconsigliato di parteciparvi, ecco, in che termini? Minacce no, però effettivamente c'erano alcuni familiari che li sconsigliavano a prendere parte attivamente alle nostre iniziative perché etichettate appunto come movimento antimafia. Quali sono i vostri ultimi progetti che adesso avete in fieri? Noi diciamo che un po' le passerelle, le manifestazioni, tutte quelle che sono i portabandiera, li rifiutiamo per certi versi, perché poi lasciano soltanto dei segni molto marginali nel tessuto sociale. Noi abbiamo tutta una serie di iniziative coadiuvate dalla Prefettura di Reggio Calabria che portiamo avanti. Per esempio, adesso nei prossimi giorni inaugureremo un laboratorio di telaio antico e di ricamo e un laboratorio di produzione di saponette. E per il discorso prettamente femminile, l'anno scorso siamo stati a New York con una mostra fotografica dedicata alle donne di San Luca, che vengono considerate dall'opinione pubblica comune le donne dell'Andrangheta, donne che hanno accettato di mettere la faccia, di farsi vedere al mondo per quello che sono, quindi quindi donne comuni come in qualsiasi altra parte d'Italia e del resto del mondo. E poi c'è questa iniziativa, io direi veramente straordinaria, che abbiamo inaugurato lo scorso novembre, ed è una ludoteca e recupero devianze, che è stata finanziata dalla Enel Cuore Onlus all'interno di un bene confiscato alla malavita e che oggi è una splendida isola felice dove tantissimi bambini hanno ritrovato il loro diritto a essere fanciulli. Anche per essere tolti dalle tentazioni della strada o di alcuni ambienti più devianti. E proprio su questo, a volte però anche soltanto partecipare a progetti del genere può essere non semplice. Lo abbiamo visto anche in altre realtà italiane, a Scampia ad esempio, dove c'è un laboratorio di sartoria dove a molte donne i loro stessi fidanzati o mariti o padri non davano il permesso di andare a cucire delle borse che potessero dar loro anche soltanto la possibilità di procacciarsi una formazione. È così anche per voi? Le donne che seguono il movimento non si farebbero fare mai posizioni da parte di nessuno. Altre purtroppo sì, sono state sconsigliate, non hanno avuto la forza di dire io questa strada la voglio portare avanti e voglio continuare su questo cammino. Purtroppo l'ignoranza, che a mio avviso è radice di ogni male, in territori come quello della Locride, di San Luca, purtroppo crea dei danni grandissimi. L'ignoranza che poi si trasforma anche in superstizione, in maldicenza e in quant'altro. Storielle. Storiacce. Un sorriso largo e un'energia quasi a fatica contenuta in un corpo minuto. Rosy Canale, presidente del Movimento Donne di San Luca, nella prima parte ci ha raccontato le aggressioni e le minacce subite da lei stessa e ci ha parlato del disappunto di cui molte ragazze, per il solo fatto di partecipare ad iniziative col bollino dell'antimafia, sono state vittime. Ma dopo la strage di Duisburg qualcosa è cambiato e anche grazie ad una donna, dice ora Canale, che ci porta poi tra le strade e i divieti di San Luca. La scuola, soprattutto in territori con alta densità mafiosa, diventa la fucina del futuro, dove questi ragazzi, nel momento in cui entra in crisi il sistema famiglia per ovvi motivi, devono essere coadiuvati da un sistema scolastico che gli dia la possibilità di essere appunto consapevolizzati di quella che è la realtà, la vita, non avere soltanto quel modello come riferimento. Cos'è che non va? Ultimamente è stato corretto il tiro in maniera quasi, diciamo, radicale, perché le nostre tra virgolette denunce hanno comunque portato dei risultati. Quello che non va nella scuola di San Luca è, a mio avviso personale, modesto, il fatto che ci siano delle professionalità non adatte che insegnano ai ragazzi in dialetto. Lei che cosa ha scritto al ministro Meloni? Io intanto ho chiesto, oltre al ministro Meloni, anche al ministro Castagna, ho scritto a Silvio Berlusconi, al presidente del Consiglio, al presidente Napolitano, di cui siamo stati ospiti l'8 marzo, ed è stata proclamata al Fiere d'Italia una ragazzina di San Luca che ha collaborato con noi all'interno della ludoteca, quindi soddisfazioni a livello di vicinanza ne abbiamo da parte dello Stato, però sicuramente forse quello Stato un po' più istituzionale e meno politico, nel senso, noi abbiamo bisogno di interventi che ci diano la sensazione, anche la certezza, che non siamo da soli, perché molte volte la Calabria è un territorio... Concretamente che cosa vuol dire? Ci faccia degli esempi di richieste specifiche, casomai sul fronte della scuola. Sul fronte della scuola sicuramente attrezzare degli insegnanti di sostegno che abbiano delle competenze tali che un ragazzino, figlio di un morto ammazzato, abbia un sostegno psicologico adeguato per potersi integrare, per poter superare il lutto, per poter capire che cosa gli è capitato. Lì abbiamo situazioni al margine, situazioni difficili, i ragazzi hanno bisogno di essere coinvolti, di essere resi protagonisti, quindi progetti soggetti, interessarli, cercare di tirare proprio dal di dentro, da ognuno di loro, tutte quelle che sono le loro voglie, i loro desideri. Un percorso anche scolastico con delle professionalità che in un certo senso possono essere anche specifiche delle difficoltà del territorio in cui quella scuola va ad operare. All'interno, assolutamente. All'interno non possono essere usati programmi, a mio avviso, non possono essere usati programmi, modalità e dinamiche che vengono utilizzate in una scuola come può essere quella di, non lo so, tipo Milano o San Benedetto del Tronto, che ha una realtà sociale completamente diversa rispetto a San Luca, che se è San Luca un motivo ci sarà. Rosy, dicevamo prima come per raccontare la difficoltà anche di crescere e di vivere in questi comuni, come è soprattutto un sostrato di ignoranza, lei diceva, che si trasforma anche in superstizione, si trasforma anche in ostacolo alla vita, soprattutto per le donne. A volte può esserci un divieto anche per l'ingresso in un bar, ad esempio. Non è che ci siano delle come dire, dei divieti, è che c'è una regola non detta, come dire, una legge non scritta, secondo cui le donne per bene nei bar non entrano, i bar sono frequentati esclusivamente dagli uomini. Beh, le donne, diciamo, più che non entrare, non frequentano i bar, ecco, questo è, perché poi diventano oggetto di maldicenza da parte di altre donne che, capito, creano delle leggende metropolitane. Per cui è difficile sotto tanti punti di vista, perché purtroppo il giudizio degli altri in territori del genere è molto, molto sentito, per cui si sta attenti a tutto, si sta attenti a non sbagliare secondo delle regole molto strane, perché il fatto di emergere in maniera negativa, quindi essere un, come dire, un elemento di spicco in determinate circostanze, a volte diventa motivo di vanto. Quindi gli onesti sono i fessi, e per cui c'è tutta una regola molto particolare. Io dico sempre che c'è il mondo e poi c'è San Luca. San Luca è un mondo a parte. Ma se esiste appunto questa forma di, diciamo, legge non scritta per cui è sconsigliabile ad una ragazza, anche dicevamo prima, di entrare in un bar, esistono anche altre limitazioni. È esatto dire che a volte la vita di una giovane donna, soprattutto in realtà come queste, è una vita fatta di ostacoli e di privazione? Sicuramente ci sono tante limitazioni. Gli altri esempi possono essere il fatto che due fidanzati non possono uscire da soli, cioè la ragazza non gli viene concesso di poter uscire liberamente a conoscere il fidanzato al di fuori della cerchia della parentela, quindi molto spesso le ragazze vengono accompagnate dalla cugina, dalla sorella, per uscire con il fidanzato, se gli viene concesso di uscire con il fidanzato. Quindi ci sono sempre per quella famosa regola della maldicenza, perché gli altri non debbano parlare. Quindi tantissime cose, ma non solo prima del matrimonio, anche dopo il matrimonio. Quindi la donna ha un ruolo fondamentale all'interno di società del genere, perché è quella che mette al mondo i figli e questi figli li fa crescere. Poi, a seconda della strada che intraprendono, io credo che ci sia una responsabilità fortissima da parte di una madre se un figlio diventa una brava persona o meno. Quindi l'importanza della donna è fondamentale, ma allo stesso tempo c'è una forma di sottomissione che appartiene sempre a quel mondo delle regole non scritte, che è una cultura. Quindi scardinare questo tipo di cultura e dare alle donne una consapevolezza di sé, la voglia di realizzarsi, di avere un ruolo all'interno di una famiglia e di una società, per quello che rivendichiamo noi come movimento, sicuramente è un'operazione difficile ma anche scomoda per qualcuno. E proseguire negli studi? Quanto è possibile, quanto è difficile? Ultimamente devo dire che ci sono degli ottimi risultati. Dipende sempre dal contesto familiare, perché a San Luca ci sono donne avvocato che hanno adesso 50 anni, per cui al loro tempo hanno avuto la possibilità di studiare, sono state cose gli è stato concesso questo. Ci sono altre che a 50 anni hanno soltanto la terza media o forse la licenza elementare. Essere donna a San Luca vuol dire essere sempre additate e riconosciute come donne di malavita, come complici di un sistema. Io non giustifico, però è molto difficile nascere in una famiglia con un cognome importante e rinnegare un padre, un fratello o uno zio. Qualcuno ha la forza di farlo, qualcuno lo fa in maniera un po' più sommessa e prendendo le distanze, altri purtroppo non hanno la forza e restano schiacciate e coinvolte in un destino di dolore. Nessuno mette in dubbio la difficoltà del farlo, però è proprio su questo che poggiano tutte le malavite organizzate e in particolar modo l'Andrangheta, è proprio su questi legami di sangue che conta la malavita calabrese e quindi forse non è soltanto una questione, diciamo, di forza, ma è anche una consapevolezza forse totale che non è facile sviluppare fino in fondo delle implicazioni che comporta essere in qualche modo, sia pur in modo silenzioso, però complici di quanto gli uomini di famiglia fanno. Questo sicuramente, però devo dire che dopo i terribili fatti di sangue della strage di Duisburg dell'agosto 2007 c'è stata proprio una controtendenza molto forte, perché le donne hanno detto basta, la faida è finita, o perlomeno al momento è tutto fermo, è tutto bloccato, e tutto questo è venuto fuori grazie, io ritengo, all'intervento di una donna straordinaria che è Teresa Strangio, la quale ha invocato perdono per gli assassini di suo figlio, caduto a 16 anni. È stata una donna che ha detto: mio figlio col suo sangue ha benedetto la pace di questo paese. Purtroppo in altre circostanze le donne sono quelle che gridano vendetta. Ripeto, il ruolo delle donne è fondamentale, e dare loro una consapevolezza di sé, della loro importanza e del loro ruolo, credo che sia importantissimo. Quindi offrire ai giovani una possibilità di avere un loro lavoro onesto, perché i giovani calabresi non devono più avere l'alibi di dire io vado a delinquere perché non c'ho da mangiare. Purtroppo a volte capita anche questo. Alla Calabria e alla sua malapianta, già tema di molte storiacce che trovate come sempre nell'archivio del sito di Radio 24, ora dedicheremo qualche puntata di seguito, e questo sarà anche il tema delle storiacce speciali sabato prossimo al Salone del Libro di Torino. Come sempre noi saremo in onda alle 13.30, ma poi alle 15.30 al Salone del Libro ci sarà un incontro aperto al pubblico, un incontro diretto col procuratore aggiunto di Reggio Calabria Nicola Gratteri, già ospite di questa rubrica. Vi aspetto allora al padiglione 2 a fianco della sala blu, allo stand H170, lo stand di Radio 24, e scrivetemi nel frattempo. Ciao, a sabato allora.